Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani, offrendo quindi uno sguardo laterale, diverso dal consueto, sul mondo in cui viviamo. È la puntata numero 676 e parleremo di sconcertanti ma rivelatrici rassegne del lusso, di animali e piante del Madagascar, di nuove fonti di alimentazione che si affacciano sulla scena e racconteremo la triste ma istruttiva storia di un'orca famosa. La colonna sonora della puntata e la ricetta della settimana sono a cura del nostro rinomato chef e appassionato DJ Gabriele Palloni. What do you wanna wear this spring? What do you think is the new thing? What do you wanna wear this season? Il Madagascar è un'isola che conserva un patrimonio di biodiversità unico al mondo, dovuto proprio alla sua posizione geografica e alla sua insularità. Vi risiedono animali e piante delle più inconsuete varietà. Ebbene, nemmeno questa isola-stato dell'Oceano Indiano, al largo del Mozambico, si salva dalla perdita di biodiversità, così tipica di questa fase dell'antropocene. Un gruppo di ricercatori ha lanciato nei giorni scorsi un SOS. Dai famosissimi remuri al fossa, loro predatore e simile a un piccolo puma, passando per lo strano pipistrello dai piedi a ventosa, sono ben 120 le specie di mammiferi a rischio di estinzione, più del 50% delle 219 presenti in quest'isola, simbolo della biodiversità. Sono animali questi che si sono evoluti in modo del tutto autonomo per 23 milioni di anni e che ora rischiano di scomparire nell'arco di un periodo di tempo brevissimo. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e guidato dal Centro per la Biodiversità Naturale di Leiden, nei Paesi Bassi, restano solo 5 anni per salvare il Madagascar dal punto di non ritorno. E questa è quasi una condanna a morte, se consideriamo quanto disattente siano le autorità politiche su questi temi e quanto rallentati siano, in ogni caso, i tempi di reazione, se eventualmente una reazione c'è. È assolutamente chiaro che ci sono mammiferi unici al mondo che si trovano solo in Madagascar, alcuni dei quali si sono estinti o sono sull'orlo dell'estinzione. Così Steve Goodman del Museo Field di Storia Naturale di Chicago, coautore dello studio guidato da Nathan Michelsen. Se non si intraprende un'azione immediata, il Madagascar perderà 23 milioni di anni di storia evolutiva. Il che significa che alcune specie uniche sulla faccia della Terra non esisteranno mai più. Il Madagascar è la quinta isola più grande al mondo, ma se pensiamo alla ricchezza di ecosistemi e biodiversità presenti, è più simile a un mini continente. Perciò la sua situazione e la sua sorte sono da considerare molto importanti. Il suo isolamento ha permesso a piante e animali di evolversi in modo unico. Basti pensare che il 90% delle specie esistenti in quest'isola non si trova da nessun'altra parte. Va detto che la biodiversità in Madagascar è costantemente minacciata, fin da quando gli esseri umani si sono stabiliti in maniera permanente sull'isola, circa 2500 anni fa. Da allora molte estinzioni sono già avvenute, comprese quelle dei lemuri giganti, degli uccelli elefanti, degli ippopotami nani. Per quantificare il rischio corso della vita animale e vegetale sull'isola, i ricercatori hanno messo insieme una quantità di dati senza precedenti, che descrivono le reazioni evolutive fra tutte le specie di mammiferi che erano presenti nel Madagascar al momento della colonizzazione, 249 in tutto. Utilizzando simulazioni al computer, gli autori dello studio sono riusciti a calcolare il tempo impiegato da questa biodiversità per evolversi e il tempo che impiegherebbe l'evoluzione per sostituire tutti i mammiferi in caso di estinzione. I risultati mostrano che 120 specie su 219 attualmente viventi sono vicine alla scomparsa. Per ricostruire la diversità degli animali già estinti ci vorrebbero 3 milioni di anni, ma molti di più, 23 milioni, se si estinguessero anche quelli attuali. Una brutta notizia ci arriva dal Mar Caspio, in Dagestan, nella Federazione Russa, dove negli ultimi giorni sulle sponde si sono arenati i corpi di almeno 2500 foche del Mar Caspio, una specie considerata in via di estinzione. Sono subito partite le analisi per capire le cause di questa moria, ma non sono stati trovati segni esterni che facciano pensare che gli animali siano rimasti impigliati in reti da pesca e non ci sono indizi di una morte violenta. Esperti dell'Agenzia Federale per la Pesca della Federazione Russa hanno ispezionato la costa e hanno raccolto dati per le ricerche di laboratorio, che tuttavia non hanno ancora evidenziato alcun agente inquinante. La causa più probabile della morte delle foche del Mar Caspio è l'ipossia, cioè mancanza di ossigeno, e gli scienziati stanno indagando se le emissioni di gas naturale nel Caspio possano essere responsabili di un livello di ossigeno troppo basso. Il Mar Caspio possiede vaste riserve di gas naturale che vengono sempre più sfruttate. Una simile moria di foche, circa 2000, era già stata registrata nel Dagestan e nel vicino Azerbaigian nel 2000. Questa specie di foca è tra le più piccole al mondo e si trova esclusivamente nelle acque salmastre del Mar Caspio. Secondo alcuni esperti, i metalli pesanti presenti nel Mar Caspio e altri agenti inquinanti sarebbero un pericolo molto grave per questi piccoli mammiferi. Un secolo fa si stimava che ci fossero 1,5 milioni di foche nel Mar Caspio, ma nel 2022 il numero è sceso a 70.000, secondo il Centro per la Protezione Ambientale Locale. Il nostro modello di sfruttamento e consumo di risorse lo pagano soprattutto questi animali incolpevoli e una riflessione e scelte diverse sono diventate urgenti. In caso di inerzia, le liste delle specie estinte sono destinate ad allungarsi e a comprendere forse la nostra stessa specie. Gatti e cani, lo sappiamo bene, sono molto cari agli italiani e popolano in gran numero le nostre case. Ma oggi tocca parlare di un brutto segno dei tempi che corriamo, perché può succedere che gli animali domestici diventino, anche loro, oggetti di consumo. Abbiamo parlato spesso, restiamo animali, di quella particolare forma di oppressione e sfruttamento che è la selezione razziale. Stavolta affrontiamo un tema più sottile e sfumato. Ce ne offre l'occasione una nuova sezione aperta nell'ambito delle sfilate di Pitti Uomo a Firenze. Si chiama Pitti Pets e riguarda evidentemente accessori, cibo, oggetti vari riguardanti cani e gatti. Hanno preso parte a Pitty Pets 15 marchi specializzati nelle varie forme di consumo, specialmente quello di lusso, legate agli animali domestici. Come si legge nei materiali informativi, si va dall'azienda tutta italiana che propone un nuovo modo di vivere l'alimentazione degli animali, ai cuscini, alle cucce rivestite di lana pregiata, dalle collezioni di lusso per vestire i cani, all'azienda che propone un progetto definito lifestyle cane padrone a tutto tondo, quindi maglioni di fantasia, pettorine, t-shirt e ancora cappotti e maglioncini artigianali e pezzi di design da collezione, che siano cucce, puff, borse, guinzaglie, ciotole e addirittura collari presentati come gioielli. Pitty Pets, nelle sue intenzioni, ha inteso intercettare un segmento di mercato in grande crescita e questa è una linea di tendenza che abbiamo sotto gli occhi. Ma si tratta, evidentemente, anche di una mercificazione dei corpi animali, attratti nel grande vortice del consumismo, ridotti a oggetti decorativi, privati di ogni traccia della loro animalità. È un triste spettacolo dal nostro punto di vista, a suo modo un segno di degrado nelle relazioni fra l'animale umano, che continua a negare se stesso, la sua autentica natura animale, e l'animale non umano, ridotto a cosa. Si continua a parlare dell'emendamento alla legge di bilancio che ha introdotto, d'improvviso, una potente deroga alle norme sulla caccia, con la possibilità di sparare ad animali selvatici in ambienti urbani, parchi, riserve, il tutto con il pretesto dell'emergenza cinghiali, ma con un testo che allarga il campo a tutti gli animali selvatici. Si susseguono, a proposito di cinghiali, le notizie di avvistamenti in parchi cittadini, e c'è stata anche la notizia di un gesto inconsulto, come quello riferito dal Messaggero e altre testate. Un uomo, un cacciatore pensionato, col permesso di caccia peraltro da poco scaduto, avrebbe sparato da una finestra di casa verso un cinghiale, colpendo però in pieno un'automobile di passaggio, senza per fortuna arrecare danno al conducente, uscito tuttavia molto spaventato da questa brutta esperienza. L'episodio è avvenuto a Fontenuova, alle porte di Roma. Inevitabile, nei commenti, il riferimento all'emendamento sulla libertà di caccia, introdotto con la legge di bilancio, come se il pensionato avesse pensato di mettere in pratica a modo suo lo spirito di quella norma. L'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ora deputato 5 Stelle, ha commentato dicendo: «Ecco i primi effetti della scellerata legge sulla caccia ai cinghiali. Ma cosa stiamo diventando? Il Far West. Non si risolvono i problemi di gestione della fauna con i fucili e le armi. È una legge pericolosa sia per l'incolumità delle persone che per la tutela della biodiversità. Esistono, continua Costa, metodi alternativi e meno cruenti dei fucili per la gestione dei cinghiali. Ci sono trappole a recinto telecomandate, vaccini immunocontraccettivi e monitoraggio della specie. Tecniche già sperimentate, dice Costa, in altri paesi e che dimostrano un'efficacia decisamente maggiore dal prendere un fucile per ucciderli. Con la legge approvata, secondo Costa, andremo inoltre incontro a un'infrazione europea, quindi a una multa salata che dovremo pagare tutti con le nostre tasse. Intanto, il quotidiano La Repubblica, nell'edizione di giovedì 12 gennaio, ha pubblicato un reportage da Genova, col giornalista al seguito degli addetti veterinari che circondano tre giovani cinghiali rimasti isolati in parchi cittadini, li colpiscono con dardi armati di sonnifero e poi li uccidono con i metodi usati nei macelli. Fatti raccontati senza pathos, senza empatia per gli animali, nel solco della psicosi cinghiali e senza fare minimamente i conti con gli esiti della strategia eliminazionista, scelta delle autorità pubbliche per la sua platealità e apparente risolutezza. Ma si dimentica che le campagne di caccia ed eliminazione non hanno dato il minimo risultato. I cinghiali continuano ad accorrere dove trovino cibo, molto semplicemente. E ai margini delle città, fra cassonetti malchiusi e discariche improvvisate, il cibo c'è, come nei campi coltivati ai margini dei boschi e non protetti. Ma la strategia macista della doppietta, in un paese che si crede macio, è inevitabilmente prevalente. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue. Bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow. Gone was the glow of blue velvet, but in my heart they'll always be precious and warm, a memory through my tears. Un'altra notizia che ha suscitato commenti irritati e grandi lamentazioni è l'autorizzazione concessa dall'Unione Europea all'immissione sul mercato, come alimento, dei grilli, insetti molto comuni nel continente e passibili anche di allevamento. In verità non è la prima varietà di insetti ammessa come alimento nell'Unione. In precedenza era toccato a larve e locuste, ma vari enti, come produttori agricoli e personalità politiche, hanno gridato all'attentato all'identità alimentare nazionale, come se la norma europea implicasse la messa al bando o l'accantonamento di spaghetti, pizze e altre specialità della cucina italiana. Mangi pure gli insetti chi ha voglia di esotico, ma è un gioco in mala fede promuoverli per una dieta sostenibile in alternativa alla nostra, ha detto per esempio Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, e parla di scelta azzardata, se non addirittura pericolosa, il vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera, Francesco Battistoni. Chissà perché nella filiera alimentare italiana si teme tutto ciò che si muove intorno al cibo, dall'onda crescente dell'alimentazione su base vegetale, contrastata in ogni modo dall'ipotesi di segnalare sulle etichette la comprovata nocività di alimenti e bevande come la carne, il vino e altri alcolici, fino al cosiddetto novel food, come gli insetti, appunto. In questo caso, in verità, la barriera al consumo di insetti è soprattutto culturale e psicologica, visto che non siamo abituati a nutrirci di larve, grilli e locuste. Ma è anche vero che in un centinaio di paesi del mondo tale tipo di alimentazione è ben radicata e comune, e quindi le abitudini possono cambiare. E oltretutto già accade che farine di insetti siano usate per biscotti e altri prodotti, in modo quindi pressoché impercettibile. E forse è proprio questo, un cambiamento di abitudini, temono i produttori e gli allevatori tradizionali. Un cambiamento di scelte alimentari che avverrebbe nell'ottica di un minore impatto sull'ambiente, oltre che, per molti di noi, con l'intento di non nuocere alla vita animale. Il punto è che gli allevamenti di insetti, da un punto di vista ecologico, sono ben più efficienti degli allevamenti di mammiferi. Ed è per questo che gli stati sono interessati a un cambiamento di abitudini alimentari nell'ambito delle politiche di mitigazione degli effetti nefasti dei cambiamenti climatici. Allevando insetti si producono proteine a costi ambientali infinitamente inferiori in termini di occupazione di suolo, inquinamento, consumo di acqua. Per noi di Restiamo Animali, contrarissimi a ogni forma di allevamento, la scelta vegetale è di gran lunga da preferire, è la via maestra del cambiamento. Ma per chi ritiene che le vite altrui siano nella propria disponibilità, per chi pensa che sia giusto uccidere altri esseri viventi al solo scopo di nutrirsi, l'opzione insetti dovrebbe essere vista con grande favore, visti i marcati benefici per la collettività. E questa forse è una delle sfide che si presentano per il futuro più prossimo. Allora le varie lobby dell'antiquata filiera alimentare nostrana di qui in avanti saranno costrette a mettere in campo tutti i loro mezzi e le loro risorse, materiali e immateriali, per tentare di contrastare il cambiamento in corso. Per ora gli argomenti usati sul piano culturale e della comunicazione sembrano fragili e decisamente di retroguardia. Abbiamo chiesto al nostro fiorentinissimo vegan chef Gabriele Palloni di dedicare la ricetta di questa settimana alla sua città, teatro, come abbiamo visto, di una rassegna di moda assai discutibile e anzi, a nostro avviso, decisamente respingente. Sentiamo che cosa ci propone Gabriele, autore, vi ricordiamo, del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Nella mia amata Firenze, questa settimana c'è Pitti, che con un guizzo di avanguardismo puro ci vuol dimostrare quanto sia fashion il nostro pet con un guinzaglio luxury. O che manciata di bischerate tutte insieme, ma che ne volete qualcosa di veramente stiloso che venga da Firenze e che rispetti gli animali? Il che c'è di più lussurioso di un bel piatto di fagioli all'uccelletto? Gli ingredienti per 4 persone sono 300 g di fagioli cannellini secchi, 150 g di passata di pomodori grossa, della salvia, aglio, olio extravergine di oliva, sale e pepe nero. Lasciate i fagioli in ammollo in abbondante acqua per una notte. Scolate, sciacquate, quindi fateli lessare in acqua a fiamma bassa, aggiungendo uno spicchio di aglio in camicia e qualche foglia di salvia. Durante la cottura si formerà una schiuma in superficie che toglierete man mano. A fine cottura salate, togliete dal fuoco e lasciate da parte. In una casseruola fate soffriggere uno spicchio di aglio tritato con qualche foglia di salvia e due bei cucchiai di olio extravergine. Aggiungete il pomodoro e aggiustate di sale e abbondante pepe nero. Fate ritirare, quindi unite i fagioli scolati dal brodo di cottura. Aggiungete un ramaiolo di brodo dei fagioli e lasciate ritirare a fuoco lento. Servite caldi nel coccio con del pane toscano. Chiudiamo, come già fatto in passato in altre puntate, prendendo una storia da Cronache e Ribelli, almanacco di utopie reali, identità indelebili e rinnovata memoria. 250 storie di lotta, coraggio e amore, un libro pubblicato da CR Edizioni che ha il merito di includere, accanto a storie, vicende, personaggi umani, anche vicende e storie esemplari di animali. Prendiamo da questo almanacco quindi alla data dell'8 luglio la giornata del Mediterraneo, che è ricordata e segnalata in questo modo. La pinna dorsale è ripiegata su se stessa, lungo quasi 7 metri, oltre 5 tonnellate di peso, rapito dal suo branco al largo delle coste dell'Islanda quando aveva solo 2 anni. Tilikum è un'orca e lo chiamano assassino. È il tardo pomeriggio del 24 febbraio 2010 quando la polizia di Orlando, Florida, riceve una chiamata. Qui Sea World, un'orca, ha ucciso una delle addestratrici. L'addestratrice si chiama Dawn Branshaw. È stata presa per i capelli e trascinata sul fondo. L'autopsia stabilirà che è morta per annegamento e per le numerose ferite riportate da quello che è stato un vero e proprio assalto. Dawn Branshaw, però, non è la prima vittima di Tilikum, è la terza. Nel 1991, infatti, Tilikum, ancora detenuto al Sealand of the Pacific di Victoria in Canada, ha ucciso l'addestratrice Kelty Byrne, e nel 99 Daniel Dukes, un ragazzo introdottosi abusivamente di notte a SeaWorld. Ma perché Tilikum lo ha fatto? Perché Tilikum è diventato un assassino? Strappato alla sua famiglia quando era ancora un cucciolo, costretto a trascorrere l'intera sua esistenza all'interno di una vasca grande come un trilocale, addestrato a fare il clown 2 volte al giorno davanti a un pubblico urlante, Tilikum a un certo punto si è ribellato. Lo ha fatto impazzendo, sviluppando improvvisi impulsi di aggressività, manifestando un vero e proprio disturbo mentale in reazione allo stress di una detenzione che lo ha isolato praticamente per tutta la vita. Nel 2013 il documentario Blackfish ha raccontato la sua storia, denunciando i maltrattamenti che le orche subiscono nei parchi acquatici e mostrando per la prima volta le scene strazianti delle catture delle piccole orche in natura, davanti alle proprie madri che urlano disperate. Tilikum è morto il 6 gennaio del 2017 a causa di una grave infezione batterica polmonare resistente ai farmaci. Aveva solo 36 anni. In natura le orche superano i 70 anni. La storia di Tilikum dovrebbe esserci di insegnamento. You better work. One thing to say. You better work. Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Anna Granata, Roberta Marino, Valentina Baronti, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.